Ma so che c'è una dedica dietro questa canzone di Ivan, ma la lascio a lui. Noi abbiamo pensato di vivere in qualche modo un Ivan più recente. Guarda che razza di tempo si vive, dove un sorriso ha i suoi retro pensieri, dove un abbraccio a piede un po' schifo, perché è mercato di nuovi favori, dove ognuno è dato di stare sempre più chiuso, sempre più solo. E allora amore, per quanto ci resta, ridiamo amore, ridiamo. E guarda il senso dei nuovi valori, fiori di stagno d'acqua più dura, il posto la lì. Un vocabolario, le cose sicure, la casa sicura, e sempre sapere il giusto momento di cose da dire, di cose da fare. E allora amore, per quanto ci resta, ridiamo amore, ridiamo. Questo nostro tirare a campare, di poca fede, di poca speranza, può farci bene, può farci male, ma questo in fondo ave poca importanza, se non ci regge un canto di vita o la bestemmia di un maggio lontano. Ti prego amore, ti prego amore, ti prego amore, ridiamo. Ti prego amore, ti prego amore, ti prego amore, ridiamo.